Sì, anche se poi sulla copertina del libro l'editore ha voluto assolutamente che comparisse la scritta romanzo, e anche se uno guarda nella seconda di copertina, insomma, nelle pagine, prime pagine interne, c'è scritto: questo romanzo è un'opera di Di fantasia, fantasia. nomi, personaggi, eccetera, eccetera, sono Vabbè, ma frutto. quello lo si scrive sempre per non avere problemi legali. Probabilmente sì, invece poi all'interno del testo io, cioè io come autore più volte sottolineo che si tratta di una storia vera, però chi lo sa, visto che l'etichetta è quella di romanzo e visto che non bisogna mai fidarsi dei romanzieri, degli scrittori, io lascio un po' il Lasciamo il dubbio. dubbio. Il personaggio che dice io nella storia si chiama come me e appunto Ha dice... studiato a Genova come Sì, te. ed è andato a studiare anche nella Germania Est Come come me. te. Gli sono successe più o meno le cose che sono successe a me nel 1988, però, e dice anche appunto che questo non è un romanzo, però chissà se è vero o no. Marco, dicevamo allora che è un romanzo che prende molto spunto dalla realtà. Il protagonista è un ragazzo, Marco, 21 anni, che decide di andare a fare un corso di studi, un mese estivo, a Magdeburgo, nella Germania dell'Est. Perché un ragazzo a 20 anni, nel 1988, quindi quando c'era ancora il muro di Berlino, decide di andare nella Germania Est? Ma appunto, studiavo a Genova, il fatto di studiare a Genova mi aveva fatto un po' assumere il carattere parsimonioso dei Liguri e ho confrontato semplicemente i prezzi delle vacanze studio nella Germania federale e quelle nella Germania orientale, non c'era paragone, insomma si spendeva 10 volte di meno andare a Quindi era una studiare. questione economica, Ma sì, adesso questo lo diciamo anche un po' così così. Non eri per incuriosito da quel sdrammatizzare, no, in mondo. realtà poi tanto ha pesato nella mia scelta proprio la possibilità di poter dare un'occhiata a quella Germania di cui si conosceva poco o niente all'epoca. La DDR o Repubblica Democratica Tedesca era Un indubbiamente mistero, sì, un insomma. pianeta sconosciuto e veniva soltanto tirato fuori quando c'erano le Olimpiadi o le manifestazioni sportive di atletica, dove gli atleti e le atlete della Germania Est eccellevano, e vincevano sempre un sacco di medaglie. E quindi questo ragazzo, Marco, 21 anni, va a passare questo mese estivo in un campus di Magdeburgo, un campus internazionale dove ci sono studenti che vengono un po' da tutte le parti del mondo, e lascia a casa la sua fidanzata, insomma, la sua fidanzata proprio del cuore a cui è Sì, legatissimo, per cui Alessia, per aveva lottato, cui eh. aveva lottato. Cioè, nel libro ripeto più volte che il Marco, protagonista del romanzo, aveva lottato duramente per ottenere i favori di questa Ale, di questa ragazza, Ma 21 compagna di anni è scuola, così, tra l'altro. poi le cose possono E sì, e cambiare. quindi la partenza per la Germania è anche un po' mettersi alla prova con questa storia d'amore che durava da ormai 2 anni e mezzo, no? E a quell'età lì 2 anni e mezzo Sono tanti, sono sono tanti. Quindi tanti. l'idea era quella che non ci si sarebbe mai lasciati. Allora, l'impatto con la Germania Est non è dei migliori, perché a un certo punto tu scrivi, è narrato in prima persona il romanzo, la DDR era un posto orrendo. Più mi addentravo in quella che era la vita normale della gente di lì, meno mi facevo attirare dal campus, dalla sua mollezza molto occidentale. Ma mi addentravo in quella vita, quel poco che riuscivo a fare, per vederne l'orrore, nemmeno lontanamente affascinato dagli esiti di quella che era a tutti gli effetti la riconversione forzata di un popolo. Cosa ti colpì e cosa è da cosa il personaggio Marco viene colpito particolarmente quando arriva nell'est? Ma banalmente dalla situazione materiale del paese, le case erano tutte fatiscenti, i negozi non esistevano, quei pochi che c'erano erano vuoti. Mangiavate poco anche, a un certo Sì, punto tu dici che avevi la fame. mensa offriva veramente poco da mangiare, sempre le stesse cose, sempre carne di maiale, verdura non esisteva. E Cetrioli. bistecche di fegato al massimo, sì, cetrioli al massimo della verdura che si poteva ottenere, o il purè di patate, liquido quasi da ospedale. Poi, vabbè, anche tutto l'ambiente, diciamo, un po' anche psicologico che si avvertiva al di fuori del campus. Era un ambiente, cioè si capiva che la popolazione era oppressa e la gente non era per niente soddisfatta e appena si interrogava qualcuno su come si sentiva e su quello che pensava del regime, stando attenti a non farsi sentire troppo, comunque si capiva tutti, che c'era della sì, sofferenza, tutti riversavano insomma. Un po' di lamentele. Però ecco, in questo campus a Magdeburgo ci sono studenti un po' da tutte le parti del mondo, sì. Gran Bretagna, Italia, Vietnam. Sì, il bello era quello, che c'erano non solo gli studenti, diciamo, ecco, locali, diciamo, locali oppure del gruppo sovietico, ma appunto essendoci anche io che ero italiano, poi c'erano anche gli americani. Quindi c'era un minimo di apertura di contatto, nel senso che più o meno io e te siamo coetanei, insomma abbiamo superato i 40, mettiamola così. Io abbondantemente. Ecco, e io mi ricordo che insomma all'epoca non avrei mai pensato si potesse andare a studiare per un mese nella Germania dell'Est, invece questo succedeva realmente. Anzi, era una delle carte che il regime giocava per apparire, almeno tra i giovani, come un regime umano, un regime comunque tutto sommato normale. Il bello era proprio quello di trovarsi poi finite le lezioni a discutere di grandi cose. Ecco, però grandi c'era temi. Una forte distinzione, almeno da come la descrivi, da questo quando Marco frequenta il campus, c'è una forte distinzione fra i ragazzi dell'Est e invece gli occidentali. Cioè il protagonista fa comunella con gli inglesi, con qualcun altro, però insomma la distinzione è forte. Ma la distinzione c'era, ma anche si vedeva, nel senso che gli studenti del blocco dell'Est erano mediamente vestiti meno alla moda, con pettinature meno alla moda, le ragazze esibivano i peli sulle gambe rigogliosi, esattamente come i ragazzi, e insomma la differenza era più che altro quella che si vedeva dal di fuori. Poi in realtà, quando si trattava poi di ballare, divertirsi e discutere, litigare, alla fine ci siamo scoperti essere più o meno tutti uguali. In effetti poi durante questa vacanza studio il protagonista quasi dimentica la fidanzatina lasciata in Italia, certo. E stringe un legame molto profondo con una ragazza slovacca, all'epoca cecoslovacca, perché che tra l'altro è anche mamma, quindi insomma sì. Proprio insomma, più grande, è già sì. Madre, è cecoslovacca, e le provoca proprio nel protagonista un terremoto emotivo, insomma. E beh, era la prima volta che tradiva, era la prima volta che aveva una storia con una donna più grande di lui. È chiaro che sì, come nella migliore tradizione dei romanzi di formazione, c'è un incontro che in qualche maniera cambia un po' le carte, cambia un po' anche proprio l'anima del protagonista, no? Uno ci si aspetterebbe che, non so, in un campus della Germania dell'Est si va lì per studiare, molta serietà. Invece no, succede esattamente come nell'Occidente, insomma, sesso, droga, rock and roll, potremmo dire. Direi proprio di sì. Io le lezioni non le ho mai seguite, tranne i primi 2 o 3 giorni, giusto perché insomma non osavo ancora fare proprio il lavativo. Però appena strinsi amicizia con il mio amico scozzese, col quale ho passato tutto il tempo lì, e appunto e gli altri ragazzi inglesi, le lezioni diventarono un optional. Senti Marco, io leggendo questo romanzo, abbiamo già detto che siamo quasi coetanei, ho ritrovato delle cose, insomma, degli anni Ottanta, la musica per esempio, i REM, Frank Zappa, che tu citi, che all'epoca andava soprattutto di moda appunto nella Germania sì. Est, ma anche hai soddisfatto delle curiosità che io avevo su quel mondo che effettivamente non avevo vissuto all'epoca. Ma secondo te un ragazzo che non, diciamo, nato, cresciuto quantomeno, dopo la caduta del muro, che cosa riesce a cogliere del tuo romanzo? È una bella domanda, anche perché io sono andato a parlare di questo libro in una scuola, e quindi ovviamente questi non sapevano niente. Il professore ha dovuto fargli una lezione preventiva prima di storia semicontemporanea per spiegargli un po' com'era la situazione. Però in ogni caso è difficile capire cosa può pensare un ventenne di oggi di un libro così. Evidentemente, probabilmente potrà imparare tante cose se ha la pazienza di provare a capire in maniera profonda quello che c'è scritto. Grazie a Marco Drago, ora in libreria con La prigione grande quanto un paese, pubblicato da Barbera Editore. Ora in compagnia di Armando Massarenti, responsabile del Domenicale, l'inserto culturale del Sole 24 Ore domani in edicola, scopriamo che cosa ci proporrete. Parlate di scuola, no? Sì, in copertina proponiamo un articolo molto ben argomentato di Franco Lorenzoni, che è uno dei più importanti educatori del nostro paese, che ci propone una lettura di un libro di Fiorenzo Alfieri, anche lui un esperto di scuola, che ha scritto un dialogo con suo nipote, lui nonno, con il nipote Leonardo Menon, e parla di che cosa? Della motivazione che è necessaria, che è forse la cosa più necessaria, che forse in qualche modo mancherà sempre di più all'interno della scuola, e che è l'esigenza che emerge proprio dal nipote, cioè dal ragazzino. Grazie Armando Massarenti, questo e tante altre cose troverete domani con il domenicale in edicola con il Sole 24 Ore. Prima di chiudere vi ricordo che la prossima settimana inizia il tour italiano di Clara Sanchez, la scrittrice spagnola famosissima per Il profumo delle foglie di limone. Da poco è uscito sempre per Garzanti in Italia il suo nuovo romanzo che si intitola Le cose che sai di me e che in Spagna ha vinto il premio Planeta, uno dei premi più prestigiosi dell'editoria spagnola. E allora lunedì 17 febbraio Clara Sanchez sarà a Milano, il 18 febbraio a Bologna, il 19 a Ferrara, il 20 febbraio a Padova e infine il 21 febbraio a Firenze. Anche per oggi è tutto, grazie in regia Roberto Scaltritti, vi ricordo che mi trovate su Twitter come Ale Teddina e ci trovate naturalmente su Facebook come Il Cacciatore di Libri. Una buona lettura da Alessandra Tedesco.